10 sono i punti cardinali, i punti cardinali, e ve li smazzo io mo. 10 sono i punti cardinali, e ve li spaccio io mo. Rime martellanti come un sound, non è che servano poi tanti round. Girare attorno all'avversario, siamo già al countdown. Non c'è bisogno di discutere per ore, quello che ho da dire non necessita giri di parole, viene fuori dal cuore, diretto come un gancio contro il petto. Vado dritto al punto, vado dritto al punto. Di cose che ho da dire sono tante, vi farò un riassunto. Primo, c'è da dire che dovunque arrivo incontro gente in gamba con in testa un obiettivo: sabotare, sovvertire con azioni creative, controinformare persone su questioni decisive. Secondo, in ogni angolo del mondo c'è una controparte che reaziona sullo sfondo. La protesta è a tutto tondo, ce n'è raffronto, focolai di resistenza in tutto il mondo. Terzo, per quanto il pueblo sia disperso, cerca solo un pretesto per reagire ad un contesto di cose futili, poteri indissolubili, e i soldi vanno e vengono come al Monopoli. Quarto, non essere codardo, testardo tipo Ciuccio Sardo, va dritto al traguardo, brucia lo stendardo, brucia lo stendardo. Per un finale alla Fight Club pagherei un miliardo. Quinta, nera la mia tinta, dentro al buio della notte ci aggiriamo tipo ninja, discreti, silenziosi, da dietro la quinta è la rivolta popolare che va spinta. Sesto, non restare sconnesso, organizzati dal basso, coi ragazzi del tuo barrio, conto il pezzo grosso, nella manica c'è l'asso, non aver paura di un riot, qualche sasso. Settimo, pensa al fine, manca il mezzo mo, non passare sopra gli altri come un treno e po'. Unisciti ai compagni e le compagne, che solo in tanti e in tante si vince le battaglie. Ottavo, resta coi piedi a terra, nessun protagonismo ammesso in questa guerra. Ascolta le persone, confronta ogni opinione in sole due parole, appoggio autogestione. Nono, contro ogni trono, stono il monologo, il logo di un partito non appoggerò. Contro chi non ha le palle, si ingrossa alle tue spalle, sventola un programma fatto di sole balle. Decimo, forse sono ermetico, ma i 10 punti cardinali ve li smazzo io mo. Resistenza, sabotaggio, controinformazione, anticapitalismo, coraggio, autogestione, politica, antipartitica, la lotta popolare come pratica, in orbita ellittica, presso un centro rivoluzionario, lotta solidale al padrone immaginario, lotta solidale al padrone immaginario. Scusate, non sono certo un saggio, ma tantomeno mi nascondo dietro un personaggio. Vi dico quel che so, vi canto come mangio, se m'ascoltate bene, se non m'arrangio. 10 sono i punti cardinali, e ve li smazzo io mo. 10 sono i punti cardinali.